ma tu stai dicendo all'inizio però. No, quando tu arrivi lì, invece di fermarti subito lì dove si fermano i camper, vicino alla centrale, vai avanti nella stradina, fai tutta la stradina bianca e poi trovi quello spiazzo dove finisce la stradina, dai, che ci stanno una decina di macchine, che costeggi il coso lì, il laghetto, dai. No, dovevi andare là, dovevi andare là, fare tutta la stradina in macchina e alla fine della stradina lì, e lì io, noi facevamo anche il campeggio lì e entravo lì perché era tutto rocce, scogli, ci sono, e già se ne toglie bella roba da lì, in quel punto. Potevi tentare a seppie o calamari comunque. Sì, sì, sì. Potevi provarci anche tu. E invece è comodo. È comoda perché quando fai surf casting, lanci, intanto ti puoi fare anche due lanci con la seppie e così via, capito? E non ti annoi. Puoi fare anche così, sì, certo. E il calamaro, la seppia riprendi anche la fermo. Perché spostarsi è meglio, quando fai due lanci, tre lanci e non prendi niente ti sposti, capito? E mi sa che si è sentato Daniele. Per me, un attimo che vediamo un po', sente qualcuno. E da 8 vai a 9,5 modulati, un bel picco di modulazione. Non posso, aereo, mi faccio due spaghetti, mi ragù e buonanotte, faccio prima almeno. E un po' di pasta bisogna mangiarla, mi cavolo. No, io quando mangio la pasta poi non l'ho mai toccato già, mai. Via, no, il pane è niente. O qualche volta se mangio il pane non mangio altro, capito? Io prendo da tesoraccio quei quadratini in mangio con cipolle. Quando le compro sempre 30 perché me le metto in frizza, me le metto. Durante il viaggio uno o due me ne mangio sempre, tolgo la polpa e mi piace il gruppo. Anche a me piace, lo facevo anch'io, capito? Ma così poi mi passa di mangiare, la voglia di mangiare, raga. No, perché quando arriva l'ora di pranzo poi non mangia più niente, cavolo. Cammina piano a 3 a 70. Dove sei arrivato adesso già? All'incrocio sono praticamente per andare da solo l'incrocio della morte che lo chiamavano. No, l'incrocio della morte che lo chiamavano. Ah, ho capito. Seguo più avanti. L'hai già passato l'incrocio della morte. Cioè adesso sto facendo una sala in questo una Londra, ma sicuramente non mi sentirai. Radio ultima, sempre 5, 7, 8, 7, 8. Questa qui sono un po' di ombra perché è stata sempre dormita con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, con la mano, io sono aperto con la zona, senz'altro, perché ti sento chiaro chiaro, Santiago è sempre 995. K, Santiago 9, oscillante, radio sempre 5. Già va bene, ma la prendiamo di passeggiata, va, così consumo anche di meno. K. Quindi ci rientra la sassa, dai. Ma se ti vuoi vedere ci prendiamo un caffè, Pittolino. Se sei al quadrato, magari c'è qualche bar aperto. Ma guarda, sinceramente sono ancora vestito di casa. Mi devo ricambiare, lavare. No, non avevo voglia di uscire oggi. Se vuoi venire tu ti faccio caffè a casa. No, c'è Bartone stai facendo, dai. No, dai, ci sentiamo un altro momento, dai. Cava cava. Andare. Il ritorno. Me ne vado in città adesso un po', voglio vedere, c'è il mercatino dell'usato, oggi c'è il mercatino dell'usato in Piazza d'Italia. Ecco, stai dicendo, ma da domani siamo a zona bianca, però la Maddalena, Santo Loro e Sassari sono rossa. Non ho capito, Antonio, zona bianca sì, ok, poi... Poi, ha detto il DC5, hanno fatto vedere anche la tracciata di Sassari. Sassari, Santo Loro e la Maddalena, zona rossa. Ah, vero? Sì, sì. Due volte mi sono dato il telegiornale, ha detto la stessa cosa. E come mai? Per il flusso di gente, poi la gente è sempre stessa, mascherina, un casino di gente. Esatto, per quello. Poi ci sono troppi contagi. E io stavo cantando Vittoria che eravamo zona bianca da lunedì. E poi risonanti fino alle 11 e mezzo, o le 11, 11 e mezzo, la pareggiare del bar lo stesso. Adesso vediamo se per Sassa non è così perché è zona rossa. Ce lo dirà Solina, la Solucia, Vigliolina, vediamo un po'. Ma se ne comprende più nulla, Tony, uno dice una cosa, uno dice l'altra, boh. E infatti, ma che c'è la Biglialucci, quello che facevo sempre faccio. Se c'è il malapreso entro il caffè, se no c'è la Biglialucci. Adesso col Galaxy sì, Tony. K, sempre con il microfono originale. Già va, adesso ti sento un bebè. Eccile. Avanti. Guarda adesso, cosa cambia? Adesso se ne l'ha cambiato, Daniele, sei 9 e 5, dai. non posso stare con l'occhio sullo Switzer, però se 9.5 ho dato un'occhiata là. No, la radio mi interessa già. Fortissima! Cava! Aspetta, che provo con l'altra radio a vedere. Eia. Anche qua è buona la radio 5, perfetta, amplificata. Guarda, con questa cosa dice? 1, 2, 3, 4 e 5. Anche con questa va benissimo. Cazzo, è passata una Fulvia di quelle con quattro sportelli contro un vento. Tu le conosci? Addirittura. No, la Fulvia, la Flavia. Ah, là c'è Flavia. Ehi, quelle basse, quelle sono due porte. O quelle quattro porte, quelle più grandi. No, quelle grandi con quattro porte che c'ha la porta di dietro contro un vento. Bellissima, ragazzi, c'era nuova, non sta rifatta a nuovo. Ce l'avete dato, c'era un motore 2000, quella di che è. Ce l'ho bene, ce l'aveva, mio zio ce l'aveva. Ma lo ricordo ancora, c'era il volante di quelli grandi. Cappa. Andrà bene, sei sempre aumentato, dove sei, vicino a Graziella? Sono nelle, quella curva l'occhia che c'è proprio dove c'è Graziella, quella curva che non finisce mai adesso. 9.20, radio 5. Andrà bene, e tu come mi ascolti, Odani? Ottimo per la truppa, Gianni, va sempre bene, non ti ho perso un attimo, Cavagava, adesso sono al rifornitore vicino alla prima rotatoria, al rifornitore dell'Agip, e vado verso Latte Dolce. Sempre ottimo, forte, vabbè, quello dopo sono pulito io, dai. E per Cavagava, poi c'è una signora antenna. Io non vedo l'ora, sarebbe meglio per questa mirata antenna, che 8 metri in palo e via. Vabbè, già ce la piazziamo, quando la devi fare fai un fischio. Ci facciamo anche la bella rossita, dai. Cava. Mettiamo la bandiera americana sopra. E le luci mettiamo pure. Perché è troppo alta per gli aerei. E gli elicotteri non sa mai. No, dai, 8 metri. Più l'antenna, altre 7 metri, sono 15 metri. Già va bene. Ciappa. E metto un paio di 8 metri, giustamente metto 6 tiranti. E allora? Si fa bene il lavoro se si fa. Si prendono 100 metri di campo e via. No, di meno. Ma sono 50 metri. Non pensi proprio? Sì, già, perché la metto lì al centro e arrivare in camera è una cazzata, Emmy. So qui fai 20 metri di campo, arrivare qua 10-15 metri, 50 metri anche per i porci. No, capo, tiranti volevo dire, i tiranti. Ah, i tiranti ce ne vogliono un me, perché vanno a allargarsi tutto il perimetro del giardino. E allora sono più di 100, 110 metri. Centinaia di metri comunque già ci vogliono, dai. Già dipendono da Brico, ci sono tutte le grossette, ma non li mettere grossi come quelli che ci aveva Manuele, che sono ben grossi. No, metto la sagola, forse quella plastificata è meglio perché dura di più. Quella marina, sta dicendo, con l'arancione. Cappa. Ah. Io ho messo sempre quelli del filo da stendere, per intenderci. E vanno benissimo. La grossetta è il filo da stendere. Mi hanno durato 12 anni, si sono seccati, ma non si sono mai rotti. Sono buone quelle lì. E infatti prenderò quelle lì, centinaia di metri, buoni buoni. Poi quella che avanza la conservo, potrebbe per servire. Sì. E metto quei triangolini per i pianti, due di quelli lì, uno più su, uno più giù, e poi i moschettoni e i tassi da muro a occhiello. Basta farlo bene il lavoro, già dura. Una volta che lo fai bene, non li tocchi più. E infatti, poi metto una posizione in cui non mi dà fastidio quando cammino nel giardino, capito? Cava. Adesso ti chiedo, segnami da sotto casa a vedere se mi senti bene. Qua sta arrivando sul 3 del 9.30. Vai tu. La radio è sempre ultima. Lo stesso segnale che c'ho a casa c'ho qua. No, casa tua è leggermente più forte. Però ancora a casa non sono arrivato, Quando sono arrivato te lo dico. Ho lasciato la strada ancora. Sul 3 c'è del 9.30. Dalle 5 sempre. Ma che non male che ha perché niente, non so, tanto già la compro il cacchio e così per la batteria, domani con calma, me lo prendo. vabbè, no. Tanto io domani non c'è niente da fare, se voi ti faccio compagnia, non c'è problema. Capo, di mattina però devo fare delle analisi, capito? Stasera devo uscire, devo fare della provetta per l'urina e penso che per le 8:30-9 sono libero perché io non so presto la mattina. Palazzo Rosa. Perché non le fai in via Umberto? Non fa di nulla. Tutto sotto casa mia. 9:30 spaccato in mezzo. Quindi è un bel segnale, dai. Ottimo. Sì, ma mi ha aperto il mai parcheggio già, è un casino, dai. Al posto della noce. Mica è pizza. Ma io non posso cambiare un bei appigli. Devi fare le scale, lo so, quello è bello. Sto pensando. Io lo faccio sempre lì. Quando le 7 di mattina, alle 8 apre e sono tranquillo. No, io l'ho fatto l'anno scorso lì, 75 centesimi ho pagato, una cazzata. A meno che vado un po' presto per cercare il parcheggio, se lo trovo almeno aperto. Sì, lo trovi, ma poi diventa pagamento, capito? Quindi se non sono le 8 ancora e poi vengono dopo le 8, vengono i cosi, ti trovano senza essere pagata la macchina, ti mettono le cose. Vabbè, devi pagare l'integrazione. E io ci metto 2 euro dentro a voglia, perché inizia dalle 8 e poi, quindi. Comunque lì fanno in fretta perché sono in tanti, capito? Cappa, ma la tua idea, mi sa che vado proprio la domanda alla fine. Io vado sempre lì, ma doveva fare anche io, tu no, ancora non me la sento perché sto facendo la cattiva. Ah, sei mangiato meglio. No, non ho tecchi di sale, ieri ho mangiato tutti i funghi, mi ha rostito i funghi, li ho fatti con prezzemolaggio, un po' di vino e peroncino. E non in salita, ce l'ho a 135 stamattina. Devo mangiare verdure, quello è il trucco. Infatti io stesso mai voglio mangiare poco. Ma quello che. Allora a me mi sale per forza perché se prendo il cortisone me lo già entro l'ospedale che mi sale e non so le tarde. Sì, siamo d'accordo, ma se tu mangi burumbe ti piace ancora di più. No, ma già mangio poco già, non preoccuparti. Ehi. Adesso sono al Ponte Nuovo, come mi ascolti? Sì, a dove dici? Vabbè. Daniele! Ottimo! Ripeti che Michelino, come mi stai ascoltando dal Ponte Nuovo, all'inizio del Ponte Nuovo? 9:36 già, forte e chiaro in radio. Quindi non mi devo preoccupare. Vai tranquillo. Adesso sei sul 9 e l'inizio del 30. E tu da lì che zona sei? Daniele? Daniele, che zona è? Via l'Italia in fondo. Mica, ti arriva bene qua, Cava Cava. Sì. Daniele? Già. A Torino lo ascolti, sì? Forte e chiaro, lo sento a Torino. Tu sei 9:25 Daniele qua, No, zona 6, Torino. E io sono fuori sassa, io sono vicino a San Camillo. Qua arrivi bene, vai. Qua arrivi bene, forte e chiaro, la 9:25, vai, abbondanti. Cioè, va bene, ma è che non ho mai sto usando, perché il tarme mi fa capricci, della batteria, capito? Adesso provo a inserirlo, va bene, sta. Ripeti già? Va bene. Ma cos'è? Ruginoso, cos'è? Si è aperto, il filo si è staccato, cosa è successo? Io mi pare di sicuro. Daniele, ascolti doppio rosso. A Gianni. Qua siamo, sto trovando un po' di cosette e forse abbiamo finito. Ecco, adesso come mi ascolti? Già ti ascolto bene tu. E tu Daniele? Già va bene tu, fai un passaggio più lungo. Allora, 1, 2, 3, prova di modulazione. Allora la televisione accesa comunque, vai. Perché mi sembra un po' alto il radio. Adesso non so se ti sta portando appresso i rumori che c'è intorno. Adesso aspetta un attimo. Sarà un po'? Adesso va molto meglio. Ecco. Allora, amplifica, sì. Tu lo devi abbassare, tu, che sei alto. Gianni, a te, come ti arrivo? Io sono qua in via di sole, mi arrivi benissimo. La radio, buona. Fortissima, Tony. Vabbè, abbasso un po'. Sì. si è ossidato, non c'è la batteria, capito? Un po' non so con la carta al vetro, ma la compro nuova, questa è una calzata da usare. Ma devo guardare, mi pare che io ne ho quelli lì. Se ce l'hai, anche io mi dimentico che Giuseppe va a comprarlo, no? È una calzata, per carità. Devo controllare, adesso non so chi c'è. Comunque uno ce l'avevo. Ce l'avevo uno di quelli col filo attaccato. Sì, saluti, fase neutra. Ok, e poi c'è la plastica intorno che tu non vedi le saldature che ci sono. Infatti. Non è tanto quanto costa, il fatto è fermarsi lì da scusare, è un casino ogni volta. Lo so. Adesso la sta attento, passa la pattuglia, ti non mi che ti fa fermare. Sì, sono sempre a passeggio lì in quella zona. L'altro giorno quando siamo andati hanno fatto la multa. Poi sono vabbè. Ok, dai, lo vado a preparare io. Che lo so, Patrizia, vedi? Per il mezzogiorno 18. Ok, vai, ci sentiamo dopo. Ciao Gianni, ciao Daniele, ben sentiti. Buon proseguo, alle prossime. Ciao ciao. Ehi, dai, Tony. Ci sentiamo, stammi bene, buona carica quando la fai. Dani, avanti. Vabbè, Gianni, quando ho finito da fare quell'analisi ti chiamo domani mattina. Ehi, ehi, dai. Cioè, adesso guardo, se ce l'ho non devi andare nemmeno. Ok, a più tardi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, Tony, alle prossime, buon proseguo di giornata, dai. Però vabbè, dove sei arrivato già? Sono arrivato a destinazione, piazzale sì. Gianni? Va già. Allora, forte e chiaro qua, vai. Adesso non fai sordo a Pomponio. No, Pomponio non è acceso, deve essere qui. Se no, mi sembrava Pomponio quando mi ha chiamato. A Pomporco? Non c'è Pomporco, deve essere sta cucinando. Cuoco è diventato. Cucina sempre lui. Adesso lo ingaggio come cuoco. Ti apro il ristorante. Ehi, ha aperto il ristorante adesso. Adesso non stai facendo nulla da me, non c'è più là, no? No, già. Ho tolto le ancore. Hai fatto bene, è troppo. Stavi rischiando troppo, là. No, mi è passata la fantasia già, vedi adesso. Con lì. Troppi malumori, troppi casi, no, boh. Meglio niente, guarda, meglio niente. Sì, ma queste associazioni, che tu capa, che tu barrizza già. Infatti. Se non prende, non c'è il polso rigido che comanda uno e succede così. Sì, vabbè, ce ne sono tante altre. No, non ne voglio più sapere, già, basta. Troppo, finito. Cambia trabacco. Io l'ho fatto per 17 anni, Daniele, già mi basta. Io già sono. Se no, 14 ne ho alle spalle, abbassano. Stavano bene, io poi alla fine ho detto lascia spazio ai giovani, io ho rischiato troppo. Da quando ho avuto quell'incidente in via d'Italia via Mendola, che se avevamo quelli più a bordo, ci hanno fatto capottare e sbattere al semaforo, cioè abbiamo capottato. E quella volta lì, dopo 5 minuti, mi ha chiamato mia figlia, papà, ma stai tornando? Mi ha dato un bel da pensare. Rischioso, già, rischioso, basta. Basta, adesso mi sto andando a Osio a fare l'antincendio. Ah, stai facendo antincendio a Osio? Cava. Ma come volontario si paga? Poi sono volontario già. Tanto, se ti pagano succedono casini, quindi voglio andare adesso una o due volte alla settimana, ma il tempo che c'hai e ciccia, no? Basta. Lo so, però anche lì di là devi entrare, o in un modo o nell'altro devono entrare in casa e soldi. Lo so già, non c'è problema, dai. Piano piano già, accasiamo, vediamo se c'è fuori anche lì. Ma lì cosa fanno? Anche i servizi ambulanza usino? Gli hanno una, già. Siamo soliti l'altra sera a controllargliela. Ma fanno roba interna è raro che scendano a Sassari, sai, fanno trasporti da un'abitazione all'altra. Ah, ho capito. Ma vabbè, almeno si stanno muovendo, dai. Aspetta un secondo. Via. Sì, si stanno dando da fare già, niente da dire, anzi. Va bene, va bene. Loro ce l'hanno l'ambulanza giusto per il paese, vai. Niente di che, però loro fanno priorità protezione civile, sia estiva che invernale. Come si chiama questa associazione? Io la conosco. L'Osilese. No, non la conoscevo. Esiste da poco allora. Non lo so da quando è aperto. Però il presidente è Andrea. Ma Andrea sì. No, non mi sembra, lavora alla TP lui. Ah, no, allora. Cavale, vabbè. Vabbè, anche Osi si è attrezzato bene. E poi lui è anche consigliere comunale lì a Osi, l'ho capito. Ah, va bene. Quindi entra la SAT, si può fare avere prestiti, coso, agevolazioni per l'acquisto delle ambulanze. Insomma. Anche lì c'è tutto l'iter burocratico, allucinante già. Poi so sì, anche c'è anche Ussi quest'anno, so che ha preso la protezione civile al 100%. Cosa già? Che il Banco di Sardegna ci aveva donato un'ambulanza quando io ero all'Avis, perché ho fatto qualche mese all'Avis pure. All'epoca sì già, lo facevano queste cose, poi è sparito tutto. E sono gli utili che c'hanno, alla fine dell'anno devono praticamente darli in donazione a qualcuno, quindi li hanno dati a noi in donazione, ci hanno acquistato l'ambulanza, centro mobile rianimazione, alla Vis, poi qualcuno se l'ha venduta senza chiedersi niente. Le classiche magagne che si fanno, vai. Mi ha pigliato due macchine, invece che avere l'ambulanza si ha preso due macchine per girare, capito? Lasciamo perdere già. Località. Lì c'era un interesse spacciato, sia la vendita del sangue che anche nel servizio ambulanza, eccetera, eccetera. Cioè noi prendevamo le offerte e poi quelli che facevano, quelli che erano nel gruppo di quelli che donavano, i donatori, si prendevano dalla nostra cassa i soldi e si facevano le feste e noi come coglioni lì a fare servizi. Oia. Se la mettono un freno a queste cose, sono sempre peggio. Buongiorno, aspetta che sei così in basso Gianni. Basso sono, io sono in macchina. Ah, allora già va bene. Ciao Gianni, ciao, buongiorno a tutti. Ti ho avvertito perché pensavo che eri a casa. No, sono in macchina Tino, che sono anche lontano da te. Capito, sono in piazza Lessini. Perché come mi stai ascoltando, basso? No, vabbè, non è il tuo solito segnale, Santiago 8, Radio 5, però non è il tuo solito segnale, per quello che ho detto. Va bene, non so in compagnia di chi sei. C'è Daniele, c'era anche Tonino e se n'è andato a preparare il pranzo. Avanti Daniele, Pertino. Daniele, non riprende. Senti, è fatto bene a entrare a avvisarmi, ma sono in giro perché ho visto la bella giornata, me ne sono sceso a Platamona. Ho fatto un giro, poi sono passato da Porto Torres e sono salito verso Sassari. Siccome era presto, adesso me ne vado in piazza Lessini e mi prendo un po' di sole. Va bene. No, io ce l'avevo acceso. Sentite la tua voce, guardate, qua come è così basso. Non pensavo che eri in macchina. Va bene, me ne sto arrivando da quelle parti, sì. Ehi Tino, buongiorno, bianco un secondo, ci sentiamo tra poco. Ciao Dani. Ah, Gianni. Ehi, a Santiago 9 Tino, sì, Radio 5 a bomba. Va bene allora, già sta andando. Gaba. Sono qua nemmeno al centro e sono dove si mette il camion dell'acqua, se ce l'è presente lì. Ah, sì. Andare, non mi dai, sentire se mi organizzo, abbiamo una rottizia in corso, quindi devo andare a organizzare il barbecue. Cava. Io sono stato previdente, prima di uscire ho cucinato e poi me ne sono uscito. Adesso scaldo la roba prima di mangiare e via dicendo. E c'è tutto pronto. Va bene, no, noi siamo qua dietro casa, diciamo, ho un piccolo prato verde, quindi abbiamo deciso oggi di fare una scampagnata, una corta scampagnata, quindi adesso porto il barbecue lì, facciamo un corto mangiato. Fate bene, ti state all'aria aperta almeno, dai. Già è bello così. Io andavo in greffa, andavamo tra ragazzi, andavamo tutti quanti in greffa a Sant'Antonio, a Uri. C'è un parco grande dove ci sono le sedie, i tavoli fatti in marmo, non in marmo, in così in legno sono. Poi ci sono i posti per arrostire, capito? C'è tutta la legna tagliata, tu non fai altro che prenderla e fare il fuoco. Qualcuno, se non c'è posto, se lo fa, si mette le pietre sulla graticola, la graticola sulle pietre e via, lo fa lo stesso. Ma c'è una bella tettoia, se piove ti puoi mettere sotto, è bellissimo. Bene. Bisogna organizzare allora qualche volta. Va bene, dai, ti saluto già, stanno bene, buon pranzo, quando lo farai, io sto andando a organizzare. Ciao a tutti. Ciao Tino, ciao, buona carica anche a te, dai, ci sentiamo, dai. Avanti Dani. Ciao Tino, buona carica da proseguo, dai. Alle prossime sei coincida. Sì, magari la stasera. Ciao. Danielo. Vabbè Dani. Già. Stavo parlando qua, un attimo. Vabbè, c'è la gente lì al quadrato. Sì, a voglia. Non è tantissima, ma già ce n'è. In bicicletta, qualcuno a piedi facendo footing, insomma, già ce ne sono. E adesso sono di rientro verso casa lì, così almeno mi faccio tutto con calma. Va. Già va bene, vai. Brava capa. Mi senti sempre bene? Sì, già, forte e chiaro. Ripeto, abbiamo perso un attimo. Da quando siamo sentiti fino adesso. Ehi, questa antenna è di sopra, si va benissimo. È lunga ma imbatti un bel. Meglio così, vai. Meglio. E il buco non ne ho fatto, dai. C'ho la base magnetica. Tanto resiste un pezzo, ora sta 110, boh, e non si è spostata di un millimetro. E se ne possiamo correre qua, già. Cosa, Dani? Ho detto sia che si possa correre. Ma infatti, no, resiste benissimo. Più che altro quando soffia il vento, che magari cammini, tira il vento, quello è più problematico. No, ma c'ho una base magnetica grande, io non c'ho la piccola, c'ho quella grande. Quella a triangolo? No, quella rotonda, solo quella grande della rete. Quella c'è nel formato più piccolo e quella più grande, quella da 12 mi pare sia. Già capito, perché poi c'è quella che fa stile triangolo, dai, che c'ha tre cerchi. Ma quella la vendono in continente, qua non ne trovi, io se non la ordini da internet qua non ce n'è. Lo so, qua non troviamo niente. Qua siamo dimenticati da Dio. Neanche nel terzo mondo. Non so, finisce sempre così già. Quelli che pensi che non hanno niente, trovi di tutto. Vabbè, hanno delle rimanenze. Le trovi. Va bene, ancora presto tra virgolette, per vedere se entrava qualcun altro, già l'una meno 20 quasi. fino a nulla ci si può trattenere, dai. Eh sì, un altro pochino, dai, e poi se coincide riprendo stasera. Sì, ma la domenica era sempre piena, adesso non mi finisce più ancora la domenica. Mandroni, sono diventati già. Il letto gli piace. Stai avanti al televisore. Ciao Bartoni, tutti grandi, so. Ma anche a me già mi piace la vita, Ci sono dei giorni che sono mandrone e non mi piace alzarmi. Sono dei giorni che mi alzo alle 6:30, alle 7:15 sono in piedi. Invece, ci sono giorni che non voglio avere il televisore, il telefono e nulla. Siamo abbastanza, perché poi anche uscire è sempre un rischio con questo cacchio di coronavirus. È sempre un rischio andare nei posti affollati, andare nei posti dove c'è molta gente. E infatti, è un macello, adesso noi siamo zona bianca già. No, mi hanno detto di no, che Sasha praticamente è zona rossa. Come è Sasha di zona rossa? Io gli stava dicendo, Tonino Cavazzacchi, anche che ha sentito il telegiornale, che solo Sasha la lasciano rossa perché ci sono stati dei combatti. Dopo già sento il telegiornale di Videolina a lunedì, vediamo cosa dice. Perché l'unica è quella, ascoltare il Videolina a Luna, perché così mi stava dicendo, ce l'ho ascoltato due volte perché non ci credevo, avevo sentito che era zona bianca e non ci credevo, l'ho ascoltato due volte, per due volte ha detto la stessa cosa. Che strano, adesso mi stavo leggendo l'Unione Sarda e vediamo cosa dice dopo. Vabbè, questo non so neanche quando sia, sia aggiornato o meno. Daniele, dai, sono qua sotto casa, come ti sta arrivando da qua? Una bomba sei già. Va bene, va benissimo. Radio, segnale, ottimo, 9:30. E allora sono lo stesso segnale tuo, dai. Bene, vega, bene, vega. Adesso qui, guardiamo cosa dice per domani. Cavolo. Sì, perché così, Daniele. Ho sentito, Tonino l'ha sentito due volte. Ha detto che non ci credeva perché sapeva che era zona bianca, invece mi sa che abbiamo cantato in vittoria troppo in fretta. Ma non si capisce più niente già. Stanno facendo casini su casini. Perché dicono prima una cosa, poi dicono un'altra, ci ripensano perché hanno visto che ci sono contagi e quindi magari ci hanno ripensato. Perché io sapevo che la zona bianca al di fuori della Maddalena, buono, che quelli c'hanno il lockdown e basta. A San Teodoro è zona rossa e anche alla Maddalena. È vero, San Teodoro c'è. San Teodoro, buona la Maddalena. Sì, cava cava. Lo so perché a San Teodoro c'è la mia compagna che lavora lì. Cazzo, bel casino. Oi, oi, oi. Va bene, va bene, ma... Ripeto, ascoltiamo le ultime notizie e vediamo già... Cosa dicono? Speriamo che siano le ultime e che non cammino di nuovo. Se no, la mattina quando ci alziamo lo sappiamo. È un casino, La prima cosa da fare la mattina, prima di fare colazione, accendere il televisore e sentire il telegiornale a vedere che colore siamo. E io lo faccio di mattina quello. Ma secondo me adesso ha liberato tutto per fare, per attirarsi la gente, capito? Per fare la cavia, già, non è altro, no. Ci usano la casa, ci hanno lo zuccherino, vedono un paio di settimane cosa succede e poi lo mettono in atto anche nelle altre regioni. Se vedono che invece peggiora, è variato, lasciamo tutto com'è. E infatti. Ma non sempre, nemmeno loro sanno cosa fare, Daniele. È una cosa difficile da gestire, non è facile. Difficile sì, già, perché non c'hai né punti di riferimento né niente, capito? Una cosa abbastanza dura, con molta responsabilità sulle spalle. Sì, perché non sai mai che pesci prendere, è un casino. Perché da una parte c'è un'economia, dall'altra c'è la salute, cosa fai? Non puoi fare, un colpo di culo e un colpo di martello, perché insomma, se quando cosa fai, peggiori le cose, se peggiori le cose per migliorare quelle che sono senza lavoro. L'unica già era prendere, vaccinare il più numero possibile di persone, chiudere per almeno un mesetto e piano piano riaprire gradualmente. E poi vedere cosa succedeva. Ma c'è quest'altro virus inglese, babba via, che si sta propagando, che è quello. Per forza. Però cosa succede adesso? Che le persone, chi ha fatto il vaccino, questa nuova cosa, quel virus a quelli vaccinati cerca in tutti i modi di modificarsi pur di entrare, capito? Ehi, infatti, è proprio un virus modificato, un casino, vabbè, cosa devi badare? Beh, io mi sa che mi metto la macchina dentro e ha giovinito e sto andando a mangiare, che è quasi ora. Gava. Tu stai aspettando che te lo prepari, no? Adesso devo andare anch'io, dai. Già, è quasi pronto, ma sono da fare le ultime cosette e ci che c'è per rotto. Gava e cava di Roggero. Io adesso mi faccio il giro d'acqua dalla rotatoria e ci entro nel cancello. Andavano lega. Va bene, dai Gianni G. Ce l'ascoltiamo dopo, se coincide. O alle prossime, vai. Va bene, dai. Buona carica, buon proseguimento, vai, a dopo. Ciao.